ci sei o no? Uniscio la chiamata. No, non gli piaccio io. Ok, va bene. Allora interrompiamola qua. Ma fa culo. Thank you. Thank you. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you.